Non ti scordare di te. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci è imperativo presente del verbo star bene. Per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci a vaccinarti. Non ti scordare di te. Campagna di Happy Aging per la vaccinazione over 60. No problem. Clayton, roll sound. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, nuova puntata di Hollywood Party, come diciamo noi, una puntata da collezione, comincia a vivere in questo momento, sono le 19.03, 47 secondi. Però 51, 52. Vabbè, tutta la puntata la vogliamo fare così, se vede la casa, no? No, perché abbiamo degli ospiti che forse importanti vale la pena e che spiegano ascoltare la collezione, perché poi se fosse solo per noi due avreste già spento la radio. Come sapete, oggi è un altro appuntamento con il cinema, anzi approfittatene questa sera se non siete andati questa mattina, oggi pomeriggio, a 2 euro, vediamo se viene battuto il record dell'altra volta. L'altra volta c'è stato 1 milione di spettatori, io ho l'impressione che saranno molti di più, e domani arriva in alle sale un film importante, che secondo noi è un film molto bello, è il nuovo film di Marco Bellocchio, Fai bei sogni, che esce in più di 250 copie, e noi abbiamo in studio grazie alcune tanto, persone esatto, che hanno avuto a che fare col film direttamente. Allora chi è Barbara Ronchi è la benvenuta, ciao. Ciao, sì. Benvenuta. Valerio Mastandrea è di casa da queste parti? No, spero di no. Buonasera, buonasera. No, ricordano ancora in molti la tua conoscente posizione. Ah, è vero, quella io l'ho rimossa. Lo ricordo. Il periodo, però era un altro studio, no? Era sempre questo. L'hai veramente rimossa. Perché tu hai fatto anche la conduzione. Sì, sì, perché era un periodaccio, mi davano 8 euro l'ora. Nere, poi lo voglio dire. Vero. Televisione e radio pubblica erano nere. Forse avete riconosciuto la voce di Marco Bellocchio. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Ciao, benvenuto, bentornato. Grazie. C'è anche Fisio Mura. Sì, per due motivi. Sentiamoli. Il primo perché ero molto ansioso di conoscere e di vedere questo film e non l'ho visto, però ho letto il romanzo e ho delle curiosità e delle domande da fare. Secondo perché voi venerdì non ci siete. Non c'è neanche la trasmissione venerdì. No, perché c'è un appuntamento importante. C'è Radio Europa 11, 12, 13 novembre, un weekend con Radio 3 a Perugia. Il titolo di questo weekend è Noi e la Francia, e ci saranno le trasmissioni di Radio 3 che saranno appunto da Perugia. Noi avremo due spazi. Allora, uno spazio sarà sabato 12 novembre al complesso monumentale di San Pietro a Borgo 20 giugno 74, nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari, dove andranno in onda tutte le trasmissioni. Dicevo, sabato 12 dalle 19:10 andrà in onda Hollywood Party, saremo io e Enrico Magrelli a condurre, e ci sarà un incontro con Pupi Avati. Ma in precedenza, al cinema postmodernissimo, celebreremo un piccolo omaggio al grande François Truffaut. Tra l'altro è morto Raoul Coutard, il suo direttore della fotografia, e noi proietteremo proprio due film che hanno avuto la collaborazione di Raoul Coutard e la regia di François Truffaut. Sono due film famosissimi, La sposa in nero e Jules et Jim. La sposa in nero sarà proiettato giovedì alle 21:30 al postmodernissimo, mentre venerdì andrà ci sarà la serata dedicata a Jules et Jim, e saremo sempre io e Enrico Magrelli a presentare questi film. Non lo interpreteremo, perché questa poi è la cosa, no? Beh, si potrebbe anche. Dov'è la sala? Può ripetere la sala dove postmodernissimo siete? No, precedente, dove farete l'incontro? Allora, il complesso monumentale di San Pietro, Borgo 20 giugno 74, sarebbe l'aula magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi. Il fatto che sia Scienze Alimentari c'entra con lei, dottor Della Casa. È possibile che ci sia un nesso. Allora, poi abbiamo un'altra notizia invece per chi è a Roma, per chi arriva a Roma domenica, al Macro Testaccio, alla Pelanda, ci sarà la possibilità di vedere Blackmail di Alfred Hitchcock. Come forse saprete, è l'ultimo dei film muti della storia del cinema inglese, forse anche il primo sonoro, e il film verrà proiettato alle 19 alle 21, e c'è proprio un ensemble musicale che lo accompagnerà, e quindi saranno due momenti interessanti. È già arrivato un messaggio molto divertente al 335 5634296, un messaggio firmato da Marco, dice: scommetto che metterete una canzone dei Super Tramp. No, mettiamo una canzone dei Super Clinton, perché abbiamo dato fiducia ai sondaggi. È un gioco di un jeu de mots, un gioco Super di Trump parole. È scritto Trump, no, perché Super Trump poi con la non è con la esatto. Comunque quindi, va bene. No, Marco, non ci abbiamo pensato, abbiamo fatto altre scelte musicali. È il momento del gong. Telefono proprio perché è stato architettato, siamo 1-1 per ora, no? Lunedì certo. Siete stati bravissimi, ieri abbiamo vinto noi, oggi il quiz, gli indizi li ha preparati Steve della casa, vediamo come va a finire. Allora 800 050 333. In questo film una ragazza vuole fare cinema. Beh, questa è una canzone che ha avuto anche una cover italiana fatta dall'Equipe 84, ma in originale adesso, era subito, Surfing Bear dei Trash Man. A parlare dei suoi tempi, non c'è niente da fare, si finisce sempre là. Cioè, è un nostalgico. No, è veramente una trasmissione piena di conduttori nostalgici. È vero, infatti bisogna rinnovarli tutti, ma ci stanno già pensando. Largo ai giovani anche, capito? Allora, questa non è stata scelta a caso dall'Arcadia di Hollywood Party, perché fa parte della colonna sonora, del tessuto sonoro di Fai i Bisogni. Allora, in questi giorni Marco Bellocchio, Valerio Mastandrea, Barbara Ronchi e anche gli altri interpreti state in giro per l'Italia a raccontare, quindi avete le facce di chi ha raccontato moltissimo, però molti dei nostri ascoltatori non erano né a Roma né a Milano, non saranno domani a Bologna, e quindi vogliamo ricominciare da capo. Ora che domanda facciamo, Steve? Questo ci chiedevamo in redazione. Io ce n'ho una. Prego, comincia da lei. La faccio io al regista esordiente. Come nasce l'idea di questo film? che credo che sia... La domanda successiva però è il prossimo progetto. La domanda è: che cosa ti aspetti? Pinto. Quella e cosa ti aspetti? Speriamo che la gente entri a vederci. No, quello è evidente. No, Marco Bellocchio, partiamo invece. No, però stavi per rispondere a lo sapevo perché ce l'avevano pure loro questa. No, capito? Non è vero. Ma non è come vero. No? Quale? Ma è normale. Cosa ti ha spinto a fare questo film tratto da un best seller che ha venduto più di 1 milione di copie? L'hai fatta col tono di... Il gong lo potete mettere quando vi pare, che è uno dei momenti meno radiofonici della... in assoluto però è interessante. Sai il messaggio, no, che è arrivato, te l'avevo detto? No, non so niente. Io non vado su, non navigo su web, e uno scriveva: ma per caso, ma perché Bellocchio ha fatto questo? Forse aveva bisogno di soldi? No, però potresti rispondere così ogni tanto anche. No, però e sto bambino, la mamma, il bambino, questa è la trama. E poi abbiamo coniato questa espressione che ho visto è stata ripresa: le vie delle madri. Questo è interessante. No, questo è molto interessante. Beh, l'hai coniata nell'incontro e la riutilizzerò, insomma. No, anche perché sei stato brevissimo, meglio dei giornalisti e dei critici, proprio perché poi hai ripercorso nei tuoi film, ci sono tante figure di madri rispetto alle quali accadono sempre delle cose: omicidi, suicidi, tranne appunto che nella balia, dicevo, in cui ci sono due madri, una è piuttosto cattivella, l'altra è amorevole, in cui però i bambini, proprio per la, l'affetto della balia, in qualche modo questo bambino è salvato nei primi mesi di vita, che sono, come voi sapete, quelli strategici per la vita di un uomo. Insomma, mentre qui se, sono, se finiscono, non lo sapevo questo, i primi mesi? Beh sì, sì. Alcuni dicono i primi, le prime ore, no, non esageriamo, no. Però i primi mesi sono fondamentali. Veramente, anche a livello intellettuale, intellettivo, no? No, questo, cioè, ma questo lo dicono tutti gli psicologi, insomma, non è che... No, non lo sapevo, no, non lo sapevo. Poi ne parliamo sì, dopo. No, secondo... rispetto, alla, diciamo, rispetto all'affettività. Ah. Aspetta, l'affettività. Invece alcuni sostenevano che l'educazione partisse dalle, dalla coscienza, invece i primi mesi, poi ci sono varie teorie, ma anche nessuno lo nega questo, non c'è bisogno di ricorrere a Massimo Fagioli, ecco, nessuno lo nega questo, l'importanza estrema dei primi mesi di vita. Non me lo segno. E del rapporto no, con la mamma. Con la madre. Qui c'è una mamma, questo possiamo dirlo, perché appunto il libro è stato molto letto, accade quasi subito, c'è una mamma che non c'è più, che sparisce. Certo. E quindi questo qua, proprio il dolore di questa sparizione, sicuramente è stato uno dei motivi che ti ha portato a, ad affrontare il libro, a raccontare. E diciamo subito, il film non è un'illustrazione del libro, no? Non ci sono come negli album delle figurine in cui uno c'è la figura della mamma, poi accade questo, poi accade quell'altro. Vabbè, più che oggettive, penso che ci sono poi varie spinte, non, ma tra queste sì, la tragedia della morte della mamma, ma proprio il modo, descritto peraltro anche da Gramellini, in cui il bambino reagisce, proprio non accetta l'evidenza del fatto che è morta, e quindi fa una lotta rabbiosa contro tutti gli adulti che lo circondano, cercano di consolarlo. Questo momento mi interessava molto. Poi, dopo, si deve placare, si piega alla sopravvivenza, e quindi si inventa anche tutta una serie di, anzi in particolare quel fantasma Belfagor, che è il suo compagno, che gli dà dei consigli buoni, dei consigli cattivi, comunque lo aiuta a sopravvivere. E poi naturalmente c'è tutto il, come tu dici, spieghi sempre, poi arrivi tu, il segmento più complesso, il segmento che io ricopro nella vita di questo personaggio è l'ultimo, quello dell'adulto, cioè quindi quello che non può più fare l'indiano rispetto a delle componenti emotive che lui ha schiacciato e nascosto. Quindi è il momento della... dimmi, sì, vedo che ti interessava molto quello che stavo dicendo. Stavo interrompendo parlando di altro. Dimmi, gentilezza, dimmi. Verso... No, ma parliamo con tutte e tre, state tranquilli. No, dimmi. No, tu hai dichiarato che hai voluto non leggere il libro. Sì. Questa è una scelta però abbastanza radicale. No, è anche tipica di chi non ha gli strumenti per farsi ispirare, anche per quello. No, era proprio una scelta, insomma, perché mi si è presentato il tema talmente in maniera potente, che poi tutto il carattere biografico del Massimo Gramellini reale ho preferito non indagarlo, perché poi non sarei stato in grado di riportarlo in scena. Quindi ho detto vabbè, me lo invento io, mi chiamerò così, ma mi invento un personaggio. È più per onestà intellettuale che per scelta tecnica da chissà da chi, insomma. Un attore così preso dalla strada che usa i suoi strumenti. No, è una scelta. Non vi intristite. Siamo seri, attenti. Tutto devi dire preso dalla strada. Tu sei laureato. No, che laureato? Non sei detto che no. Mi hai detto che ti sei laureato. No, adesso così hai sembra che per laureato. Sedurti, ma non è vero, è lui che mi confonde. No, provino, ho fatto un anno e mezzo all'università. No, poi infatti dei provini parliamo. Ascoltiamo ora una scena proprio da Fai bei sogni. Mi scusi. Prego. Credo di aver parlato con lei poco fa al telefono. Eh sì, la tachicardia parossistica. Venga, facciamo controllo. Lei si è chiesto il perché di questi attacchi? Da dove vengono? No, gliel'ho detto la prima volta. Quando mi viene l'ansia riesco a controllarmi. Ci sono sempre riuscito. Poi da bambino, soprattutto dopo la morte di mia madre, avevo anche qualcuno che mi aiutava, che mi dava dei consigli. A volte erano veri e propri ordini. Era un tipo piuttosto autoritario. Suo padre? No. E allora chi? Un suo amico? Sì, in un certo senso sì. Un vero amico, anche se in realtà non esisteva. Belfagor. Belfagor? Conosce? perché che da bambino non l'ha visto? Faceva paura. Belfagor, il fantasma del Louvre, è stato uno degli sceneggiati di maggior successo degli anni 60 italiani. C'è molta televisione in questo film, ma arrivano anche parecchi messaggi qui al 335-5634-296. C'è gente che dà appuntamento, Pier Giovanni che dà appuntamento a Bellocchio all'Aquila, dove sarà tra pochi giorni, e poi insomma vari apprezzamenti, ma soprattutto vorrei leggere il messaggio di Gino, che scrive da Stia e dice: a Bellocchio suggerisco di evitare la via delle suocere. Cioè, le madri sì, le suocere no, insomma. A questo non ci avevo pensato, no? Non ci devi pensare, poi, Gino si potrebbe seccare. Barbara Ronchi, tu nel film sei la mamma, la sì, mamma, che è molto importante, sono dei momenti di grande allegria domestica. E di ballo. E di ballo anche, quindi quello che avete sentito, poi i nostri che sono i nostri ascoltatori, dice: ma questa canzone c'è anche in Apocalypse Now, in Full Metal Jacket. Certo, le canzoni sono lì a disposizione, non è un rimprovero, era soltanto un'esibizione di competenza musicale da parte dei nostri ascoltatori. Barbara, invece, appunto, Valerio diceva non ha letto il libro, non voleva avere a che fare, giustamente secondo me, con l'universo di Massimo Gramellini, che è l'autore del romanzo, lo ricordiamo. Per te invece che cosa è accaduto? Beh, io ho letto il libro la sera prima di fare il provino, e tutto in una notte praticamente. Ma che riti? No, è una cosa da psicopatici. Ma non è vero. Ma il libro di 250 pagine. No, 3-4 ore. No, perché poi uno pensa male, pensa che ha preso delle sostanze per leggere la sera prima. La simpatia. Certo. E che cosa è che no, devi fare il provino? Ecco perché ha vinto il provino, perché è arrivata sconvolta. Capito? No, e allora ho letto il libro. No, e in qualche modo per me il romanzo è stato una linea guida, nel senso che tutto quello che poi nella sceneggiatura, nel film, c'è insomma anche il potere della sintesi, no? Per quanto riguarda le scene con la madre, insomma, le scene di Joe, le scene di chiaroscuro erano immagini, erano momenti, appunto la canzone, il ballo, che poi tra l'altro era una scena improvvisata, sì, quella del ballo, non c'era sceneggiatura. Però per me il romanzo è stato una linea guida, perché si racconta tutta la storia della mamma, anche quando era giovane, di questa ragazzina, si racconta il rapporto col padre, per esempio. Io non ho scene con Guido Caprino, che è quello che fa mio marito, però a me ha aiutato a darmi una storia, cioè a darmi insomma da dove venivo, no? e dove dovevo arrivare. Poi io di mio mi sono immaginata, diciamo il mio lavoro, mi sono immaginata di vivere una sola giornata del film, cioè come se partisse la mattina, proprio la giornata di questa donna, che partisse la mattina e finisse la sera con Fai Bisogno, cioè il momento in cui insomma mette a letto il bambino. E questa cosa mi ha aiutato, perché in qualche modo ho pensato che ogni mattina questa donna, per alzarsi dal letto, facesse una fatica, no? E la fatica di alzarsi ogni mattina e pensare che la vita fosse una prova da affrontare, questo per me è stato il punto di partenza, diciamo, per il lavoro poi, insomma, durante il film. E questa è una testimonianza di un'attrice che ha studiato all'Accademia. No, la differenza tra me e te, eccola qua, insomma, uno così, uno baciato da non si sa che no, il libro lo leggo, no, cerco io, faccio io, invece lei che lo legge la sera prima, immagina, visto che questa donna ogni mattina che si sveglia è un peso, immagina tutto in una giornata sola, dice almeno si sveglia una volta sola. Connessione di rete. Questo è il tuo telefonino, credo. Ma Valerio, ma il cellulare? Ma ha fatto tutto da solo, ma non l'ho toccato, ragazzi. Insomma, era un esempio di, ecco, bisognerebbe fare come fa lei, esatto. Come si dice, di approccio al mestiere. Forse conviene se lo spegni, perché non vorrei che la signorina Siri ti parlasse. Ma non c'è Siri, questo non è niente che riguarda quella marca. Quella marca lì che non nominiamo. No, beh, poi è difficile. Che la signora Siri. Marco Bellocchio, che provini hai fatto per i tuoi attori? Ma in modo chiaro, perché quando allora c'hai il libro, già scrivere la sceneggiatura un po' trasformare è stato complesso. Poi effettivamente i film sono fatti di esseri umani che interpretano, e lì non c'erano obblighi, e non c'erano però già dei volti che alcune volte succede, tu scrivi e sai già chi sarà l'attore. In questo caso lì c'erano due tipi di il tempo, appunto, mi ha colpito quello che diceva Barbara, nel senso che ha condensato in un giorno. Vabbè, questo ha studiato, cioè non è che allora lì c'era da condensare in un film, sia pur lungo, un tempo immenso, con il dilemma primo del bambino, il bambino uno o due, poi per fortuna, un po' per fortuna, per lavoro, naturalmente ringraziando chi mi ha aiutato, abbiamo trovato il bambino ed era giusto che fosse quello, proprio l'età 8-9 anni e poi il preadolescente e poi c'era l'adulto. L'adulto naturalmente sicuramente abbiamo capito che doveva essere uno solo, perché sennò uno doveva il ventenne, il treno, no. E abbiamo fatto dei provini, devo dire che sarà perché sono ormai vecchio e quindi anche rispettabile, venerato. C'è un momento in cui ti chiamano maestro, il giorno dice se ti lascia perdere, sì. Fatti chiamare maestro. Allora gli attori che io ho chiesto di far morire, devo dire tutti si sono e poi è vero, adesso non c'è da fare battute. È chiaro che lì il discorso non è di misurare la bravura, ma l'aderenza al personaggio, ecco. E quindi abbiamo per Barbara, scusa, abbiamo fatto uno o due provini? Quattro, ne abbiamo fatti quattro. Adesso perché è venerabile, no. Capito? Allora. No, come quattro? Questo non abbiamo fatti quattro, abbiamo fatti che ci siamo incontrati e ti ho cantato la canzone. Poi no, ci il siamo provino filmico. Il provino filmico? Uno. Due? Due. Poi abbiamo fatto un altro il giorno di Pasqua, che tra l'altro mia madre ancora ride. Perché tu mi chiamavi tipo a far provino il giorno di Pasqua. Poi mi ha richiamato la vigilia di Natale. La vigilia di Natale. Primo ciacca a Ferragosto. Sai perché? Perché c'è stata un'intuizione. È così, come c'è un'intuizione. Allora dice è così. Però poi tu stesso incominci a crearti dei dubbi inutili che ti fanno perdere del tempo e che però vengono superati con fatica. Però per esempio, scusa, tu nel provino eri la madre, però magari ne abbiamo provinate inutilmente 4 o 5 altre, così, perché se andiamo avanti viene fuori che se sono sbagliati a prendere lei, guarda, uno dice guarda che ha segnato male il nome, però è andata comunque bene, guarda. No, poi ci sono sempre anche quelle sollecitazioni che spesso sono pericolose, soprattutto per registi fragili. Che adesso stai parlando per registi fragili, che ragione. Il produttore o altri dicono: ma no, prendi quella che è famosa. E che poi è un concetto molto relativo. Ma un certo che non serve nulla. E poi ti metti in difficoltà, dici: ma cosa significa? Nulla, insomma. No, e anche per la madre ci sono state altre delle segnalazioni. Per fortuna abbiamo resistito. Bene. Perché è stata veramente una scelta brava. No, ma infatti comunque, sia Barbara che Valerio sono brevissimi. I messaggi qui crescono a dismisura, però voglio leggere un messaggio, a proposito, si parlava di gente che assume sostanze. Elena scrive: io adoro Mastandrea come attore, come scrittore, come uomo. Lì le sostanze sono state. Ha assunto delle sostanze. Sicuramente sì. Specie per tutte e tre, poi neanche per una. E no, poi ti chiedi: cioè, fossero tutti come lui, perché non si è candidato alla Casa Bianca? È vero, sto leggendo Elena che scrive. Sì. Sentiamo un altro brano da Fai Bei Sogni. Carità, stata con me, non me la sa. Fa'mi penare, fa'mi impazzire, fa'mi dannare, ma dimmi sì, muore per te, vivo per te. Yeah. Allora, usciamo anche questa canzone, la colonna sonora della, così, è legata ai sogni sostanzialmente, quindi per questo è stata scelta dall'Arcadia. 800 050 333. Allora, il primo indizio diceva che in questo film una ragazza vuole fare cinema. Ecco il secondo indizio. In questo film una ragazza ha una ferita a una mano. Fisio, tu hai capito qual è il film misterioso? Io sì, lo so. Lo sai. Allora, posso fare una... Devi, io l'ho letto il libro. Contrariamente al dottor, al non dottor di notte con le sostanze, non, sì, di notte e di giorno, così. E volevo fare una domanda al maestro, appunto, si parlava prima così. Allora, nell'affrontare il libro non ha trovato che l'assenza non è soltanto del bambino nei confronti della mamma, ma è pieno di personaggi pieni di assenza? Ah, sì, il sì. Marito, il padre, sì, sì. La eclatante la governante, che a un certo punto che non riesce ad avere un rapporto col figlio perché a sua volta non ha avuto nessun tipo di affetto, sì, la fidanzata del padre, sì, vabbè, la fidanzata, sì, sì. La coppia di amici dei genitori di Massimo, che non hanno avuto figli. Vabbè, ma lì c'è il discorso che certe verità non si possono dire a un bambino di 8-9 anni, però poi c'era tutto un rimpallarsi, una serie di responsabilità, anche perché nel libro, come lei ricorderà senz'altro, il padre per orgoglio rifiuta l'aiuto di madrina, è come se volesse, io va bene, resto solo con lui, secondo me facendo molto danno al bambino, perché in realtà lui sì aveva questa autorevolezza, ma non freddezza, proprio una durezza, un'incapacità di rapportarsi morbido, materno, insomma, con questo bambino, facendo veramente il suo dovere. Poi dopo, col passare del tempo, è un po' quello che dice Massimo, ma scusate, ma a 20, a 30, riconoscendo anche se stesso, una paura, un'assenza, una autodifesa da sopravvivenza, no? Però appunto loro ad un certo punto se ne dimenticano, quindi sì, c'è una diffusa assenza, però l'assenza principale è quella, sì, di Massimo, che cioè, però gli consente anche di avere una escalation in certo, no, in questo senso è molto frequente, tu ti nascondi, però a livello esterno c'era nel personaggio, lasciamo perdere, proprio una volontà di affermarsi, di essere importante, che poi è riuscito sia al personaggio che anche all'autore, insomma, brillantissimamente. Valerio Mastandrea, ho una curiosità, una sensazione, potrebbe essere sbagliata, quindi la puoi smentire. Ho l'impressione che per te interpretare questo film ha un po' ti ha portato a ragionare sul mestiere d'attore e anche forse sull'importanza di questo mestiere. Non perché tu pensassi prima, non mi permetto di dire questo. No, permettiti, tanto mi sa che te l'ho pure detto. No, cioè, non me l'hai detto. No, beh, sicuramente questo film, questa chiamata è arrivata subito dopo Non essere cattivo, che è stato, insomma, il film che sapete, vissuto da me e non da attore, e quindi vissuto con grandissima invidia degli attori che non avevano i problemi che avevamo noi, e quindi non lo reputo un film casuale in cui io potessi riappropriarmi della passione per questo mestiere, che ultimamente non che fosse scemata, però insomma questo è un mestiere molto in contatto con la vita di chi lo fa, e quindi magari la vita e le scelte che uno fa nella vita, le esperienze eccetera, possono farlo vacillare a volte, no? Cioè, io per esempio sono uno che ha fatto l'attore per tanti anni, forse per un motivo, poi a un certo punto quel motivo non mi è servito più, allora adesso comincerò a farlo per un altro motivo, quindi credo che sia stata una epifania, questa parola che non mi piace, ma capisco cosa vuol dire. Però il l'hai fatto di bene. Incontrare un regista così in un film del genere, con un personaggio di quel tipo, un personaggio che deve liberarsi da qualcosa, sono tutte cose che mi riguardano, mi hanno riguardato in quel periodo, e mi riguardano e mi riguarderanno per tutta la seconda parte della mia vita, che sta finendo comunque, però insomma, cerchiamo di vivercela su questa nota di moderato ottimismo. Quando hai letto la scena in cui devi ballare, abbiamo scoperto, ero molto preoccupato lì perché non mi credevo capace, e invece quel contesto, questo giovane regista e tutta una serie di cose, anche era quasi fine film, insomma, o no, perché poi questo film a me è sembrato durasse Sì, è stato interrotto due volte. Non lo so, alla fine è venuta. E quando l'ho visto mi sono veramente impressionato, perché io sul serio ho un problema col ballo anche da solo a casa, cioè è una cosa molto intima, molto. Si vede che ho fatto l'attore quasi per davvero là. Non solo un'ascoltatrice chiede se è un film adatto per un bambino di 11 anni. Secondo me sì. Non guardare voi... me, io. No, chiedo, cioè, cosa ne pensate voi? Cioè, è un parere che chiede. Secondo me sì, io se avessi un figlio di 11 anni lo porterei a vedere Fai bei sogni. Ma però se non ce l'hai c'è un motivo anche, no? Cioè, perché sono più grandi. Esatto. Io penso solo a mia madre che a 7 anni mi ha portato a vedere Corvo Rosso, Non avrà il mio scalpo, e a 6 e mezzo L'albero degli zoccoli. Io questa cosa ancora l'ho detta al maestro Ermanno Olmi, che dispiaciutissimo di questa cosa si è battuto lui il petto dicendo perché? Perché? Ho detto perché era una fricchettona, maestro. Scusi, andava alle arene. Io mi ricordo quella scena. Non posso assumermi la responsabilità, però è un film che alla fine finisce bene. Infatti. Finisce bene pur partendo da un dramma, da non so, però è lei che deve decidere, non può chiederlo a noi. Allora, dice il telefono che ci parla un attimo lui, mi sembra motivato. Ovviamente. Secondo te, Barbara Ronchi? Secondo me sì. Proprio perché alla fine finisce bene, c'è una liberazione, c'è... Comunque in questi casi si fa così, prima va la mamma e poi magari ci ritorna così... Sono due biglietti pagati. Ma poi, no. Scusate, ma il bambino poi ha una grande soluzione. Si addormenta, cosa che poteva fare il dottor Mastandrea in Corvo Rosso. No, comunque l'idea che va prima la mamma, adesso al di là del ma sicuramente farà così. Anche perché appunto è un film che parla del dolore, ma anche dei momenti di grande leggerezza. Non pensate, è una cosa che uno va lì e ci si commuove, certo. Si sorride, si ride in alcuni momenti. Si dorme anche. Esattamente come nel romanzo. Allora noi vi ringraziamo molto. Sì. Fai bisogni. È già finito. Grazie. Avevo tantissimo da dire. Da domani torna quando vuoi, anche in conduzione. Se aumentate la paga, io vengo. Vabbè, cercheremo di arrivare a dire così poco. Sì, ma sì, non è vero. No. Non ti dà retta, dai. 8 euro neri. Neri proprio. Certo. Quindi sono 16. Sarebbe uno scandalo. Sarebbe uno scandalo clamoroso. Uno scandalo per la Rai. Ma non è vero. Infatti, è una battuta. Ecco, non credete. Allora, ultimo messaggio voglio leggerlo. Per Valerio, grazie per come ogni volta racconti il tuo lavoro di attore. Consolati. A 12 anni mia madre mi ha portato a vedere Il Gattopardo. Quanta cattiveria. Mamma cinefil. Vi salutiamo con un'altra scena del film. Caro Simone, temo di non avere alcun titolo per rispondere alla sua lettera. Tranne uno, di cui non vado certo orgoglioso. Sono orfano di madre. Fin da bambino. Avevo 9 anni quando morì. È stato per me il vuoto, il panico. Era impossibile che non ci fosse più. Ogni volta che tornavo a casa pensavo di ritrovarla, di rivederla lì, in cucina, con la radio accesa. Tutte le sere, quando ero a letto, aprivo gli occhi di colpo nel buio, sicuro di trovarla seduta sul bordo del letto. Per me non era morta. Ai miei amici raccontavo che viveva in America. Poi, crescendo, ho smesso di parlarne. E di pensare a lei. Allora, il momento del terzo indizio, 800 050 333. Allora, ricapitoliamo. In questo film una ragazza vuole fare cinema. In questo film una ragazza ha una ferita a una mano. Ecco il terzo indizio, quello decisivo, anche se ce n'è un quarto su Facebook. Il terzo indizio recita: in questo film due poliziotti sanno usare i pugni. Allora, questa mattina c'è stata la conferenza stampa del prossimo Festival di Torino, 34esima edizione, ci ha raggiunto in studio Emanuela Martini, che lo dirige da 3 anni, e ci facciamo raccontare che cosa vedremo. La prossima settimana, dal 18 al 26 di novembre, si apre la 34esima edizione del Torino Film Festival. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa a Roma ed è con noi in studio Emanuela Martini, che è al suo terzo anno al timone come direttore Tu come ti chiami? Direttore, direttrice? Direttore? Io di solito mi chiamo direttore perché vado molto su termini anglosassoni che non distinguono per lo più tra maschile e femminile, però adesso va direttora o direttrice, visto che c'è l'italiano, chiamiamo direttrice. Dai. Allora, la direttrice, la direttora, che mi piace, ma insomma, questo è un dettaglio. Emanuela, 34 anni, sono tanti e sono pochi per un festival, siamo nel pieno della maturità di questo appuntamento che Hollywood Party seguirà anche quest'anno con Alberto Crespi e Dario Zonta in conduzione. In questa crescita però naturalmente non si perdono degli elementi, come in una vera carta d'identità, degli elementi ma non si perdono le radici, che secondo me sono la cosa assolutamente fondamentale. Essendo questo nato Torino Giovani, è rimasto Torino Giovani. Io credo che l'identità molto forte che ha il Festival di Torino da sempre, dal primo anno in cui nacque, sia anche una delle cose che gli consente di sopravvivere piuttosto bene e di continuare a avere presa sul pubblico, ma non solo sul pubblico, anche sugli addetti ai lavori moltissimo, ma anche su tantissimi produttori, distributori, registi che sono contenti di venire al Torino Film Festival. Cioè è rimasto legato al cinema giovane, al cinema indipendente, al cinema da scoprire sostanzialmente. La struttura del festival la vogliamo raccontare rapidamente per chi non ha avuto magari mai occasione di visitarlo o di leggerne? La struttura è complicata, ma probabilmente anche abbastanza semplice. Il concorso principale, concorso internazionale lungometraggi, che è composto da 15 film, è ancora appunto legato all'identità forte del festival. Opere prime e seconde, da tutti i paesi del mondo. Poi ci sono gli altri concorsi, un concorso documentari italiani, che è molto importante, sempre più importante negli anni. Concorso documentari internazionali, per i documentari internazionali vale abbastanza lo stesso discorso che per quelli italiani, concorso cortometraggi, questi per quanto riguarda i concorsi. Poi c'è un grande contenitore che si chiama Festa Mobile, Emingueyana Memoria, si chiama Festa Mobile da molti, molti, molti anni, e dove praticamente mettiamo tutti i film che ci sono piaciuti dai festival internazionali fin dell'anno inediti in Italia e che vogliamo far vedere al nostro pubblico. Moltissimi, alcuni di questi escono, moltissimi altri non escono nelle sale italiane, ma sono mescolati i film in Festa Mobile, cioè appunto ci sono film molto grossi come quest'anno c'è Sully di Clint Eastwood, c'è Free State of Jones di Gary Ross, c'è Absolutely Fabulous con la notoria serie TV inglese e molti altri. Ci sono anche film molto piccoli, che ci sono due film in cui c'è una magnifica Isabelle Huppert, e sono L'Avenir e Elle di Paul Verhoeven, e molti altri piccoli film, molti film torinesi per esempio all'interno, alcuni documentari, un documentario di Daniele Segre sulle signore partigiane piemontesi vive da 92 anni in su, che verranno tra l'altro a presentarlo, un film su Gippo Frassino, un sacco di cose molto diverse. Poi c'è una sezione oscura, cioè oscura nel senso che in teoria andrebbe la notte, si chiama After Hours, però ovviamente noi la passiamo anche di giorno, dove non ci sono solo horror come dice un pochino la vulgata, ma ci sono film strani, mockumentary, bizzarrie, con tanto di notte horror. Che è stata fissata quando? Il primo sabato, perché poi la domenica si può. Quindi siamo al 19? Siamo al 19, sabato 19 novembre. L'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione della Notte Horror, che è andata benissimo, avviene nella sala del Massimo 1, sono 450 posti. Io non ero sicurissima che avremmo riempito, si comincia a mezzanotte e ci sono tre film, uno di seguito all'altro. Caffè libero per tutti e brioche calde. A getto continuo, perché poi uno c'ha, cioè un libero bisogno. Vuol dire gratis naturalmente, beh, l'hai tradotto appunto dall'inglese sì. Quindi il 19 novembre non prendete impegni se siete perlomeno da mezzanotte in avanti. C'è il caffè, brioche, tutto gratuito, e poi sono anche dei film interessanti. A proposito di film di genere, ascoltiamo una clip che abbiamo scelto di un film che si vedrà a Torino e che ci dà la possibilità di parlare della retrospettiva, della seconda parte della retrospettiva. Bobby, ascoltami. Ti faccio subito una buona tazza di caffè. Non voglio caffè, voglio solo i miei bambini. Beh, non sono qui. Dev lavora fino a tardi oggi, così ho sistemato i bambini da un'amica in modo da avere l'occasione di fare una bella pulizia a fondo. Chi ti ha detto che Amy e Kim erano qui? Nessuno, nessuno, ma la notte in cui ti hanno cambiato io ho tenuto i tuoi bambini e così mi è sembrato logico che adesso... Cambiato? Cosa stai dicendo? Non lo so, davvero non lo so. Bobby, smettila! Guardami! Lo sai che ho ragione, sei tutta differente. La tua figura è diversa, la tua faccia, quello che dici, tutto è diverso. Sì, sì, sì, non è meraviglioso. Ma perché non cambi idea e prendi una buona tazza di caffè? Cos'è arcaico per te? Arcaico? Sì. Non lo so. Rifletti, prima lo sapevi, quando siamo andate da Maria Axel mentre stava stirando, lei non lo sapeva, ma tu sì. Davvero? Beh, l'ho dimenticato. Come lo vuoi il caffè? Questa era una scena dalla fabbrica delle mogli, sì. E proprio perché la retrospettiva dallo scorso anno è dedicata a un genere fondamentale della storia del cinema, che è la fantascienza. Tra l'altro ho letto in questi giorni che anche il Festival di Berlino vi sta copiando, perché la retrospettiva, che di solito è uno dei punti forti della Berlinale, è dedicato alla fantascienza. Il titolo ufficiale della retrospettiva è Cose che verranno, la terra vista dal cinema, cioè come il cinema ha immaginato la terra del futuro. Il titolo ufficioso familiare e secondo me molto efficace è Pecore elettriche, che è tratto dalla famosa titolo del racconto di Philip Dick da cui è stato tratto Blade Runner, cioè ma gli androidi sognano pecore elettriche. Quest'anno c'è un'altra fetta di questo cinema che ha immaginato nelle maniere più diverse il futuro della Terra, male, nelle maniere più diverse, ma tutte comunque apocalittiche, distopiche, eccetera, le chicche tipo i cortometraggi inseriti in film a episodi di Godard, tipo la grandissimo La Jetée di Marker, film assolutamente seminale, appunto anche andando nel genere. E nel genere c'è La fabbrica delle mogli versione 1, cioè dimenticare completamente il brutto remake degli anni 2000 con Nicole Kidman, che è anche consolatorio, invece La fabbrica delle mogli di Brian Forbes anni 70 è durissimo, sono i mariti suburbani ricchi che vogliono le mogli trasformate in robot sexy e casalinghi sostanzialmente. Cioè, quindi c'è tutto questo immaginario che quanti attraversa. Film saranno? Quanti film ci saranno in questa seconda parte della retrospettiva? Nella prima ce n'erano 31 o 32 lo scorso anno, quest'anno ce n'è 20, 18-20. Anche perché ho scavato un piccolo spazio che di solito va alla retrospettiva per un'altra piccola retro. Omaggio all'anniversario del punk, piccola retro sul cinema punk, anniversario peraltro abbastanza falso perché se lo sono un pochino inventato gli inglesi, che hanno detto che il 26 novembre del 2016 è il 40° anniversario del punk, perché il 26 novembre del 1976 uscì Anarchy in the UK dei Sex Pistols, che in parte è vero, cioè come movimento culturale, come stile di vita, come sottocultura, se lo sono veramente inventati gli inglesi, però la musica punk era cominciata prima in America. E infatti percorre, questa piccola retro, percorre l'origine americana, East Coast, sbarca, arriva in Inghilterra dove si inventa lo stile praticamente, e poi ritorna a West Coast con invece le cose un po' più di genere, quando il punk andò a Los Angeles sostanzialmente. Senti, un'ultima cosa, da alcuni anni il Torino Film Festival, quest'anno ripetiamo la data, dal 18 al 26 novembre, ne stiamo parlando con Emanuela Martini che lo dirige, ha un direttore ospite, sì. Quest'anno è Gabriele Salvatores, esatto, che ha fatto una scelta molto interessante, non so se sollecitata da te, no. Che cosa è accaduto? No, se l'è proprio inventata lui, e devo dire che questa è stata immediatamente la dimostrazione di quanto in realtà Gabriele Salvatores fosse affine come spirito, come generazione, diciamo, se un po' anche al Torino Film Festival, perciò come quanto fosse giusto a fare il guest director. Allora, sono i 5 film per i quali non sono diventato avvocato. Ovviamente i film per cui non è diventato avvocato sono molti più di 5, lui doveva scegliere 5 o 6, e il titolo della sezione è 5 pezzi facili. I film sono Jules Jim, Blow Up, Alice's Restaurant di Penn, Fragole Sangue e If di Lindsay Anderson. Grazie Emanuela Martini, vi ricordo l'appuntamento dal 18 al 26 novembre di quest'anno a Torino, già appunto il 18 noi saremo negli studi proprio di fronte a una delle molti sale che ospita il Festival Cinema Massimo, negli studi della radio, e Dario Zonta vi racconterà insieme ad Alberto Crespi che cosa accade. In bocca al lupo. Buon divertimento. Allora, credo che ci sia un vincitore che ha indovinato per l'appunto qual era il nostro quiz misterioso. Chi sei, caro vincitore? Buonasera, sono Agnese. Da dove chiami, Agnese? Da Roma. Bene, allora, qual è il titolo del film che tu hai brillantemente indovinato? Black Dahlia. Di Brian De Palma, sì, una ragazza vuole fare cinema, quella ferita che si fa alla mano sarà utile per capire chi l'ha ammazzata, e due poliziotti che fanno pugni, insomma sono due ex pugili che fanno i poliziotti. Bravissima Agnese. Uno è il buono e l'altro è cattivo. Grazie mille Agnese, ciao. Grazie a voi. Un gol al 90° proprio, eh. No, ma Agnese è bravissima. Avete preso la rete al 90°. Agnese bravissima, come sono stati bravissimi Francesca Levi, Maddalena Nisci, Fiore Liborio, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, che hanno fatto una trasmissione nella quale c'erano Marco Bellocchio, Valerio Mastandrea, Barbara Ronchi. Poi c'era Claudio De Pasquali sicuramente, ma c'era anche Efisio Mondas. No, c'erano soprattutto il dottor Enrico Magrelli e il dottor Stefano Della Casa. Stavolta l'ho detto bene e non mi sono dimenticato il suo nome. No. Domani parliamo di Truffaut. E c'era anche . Manolo Martini. Ah, c'è anche Manolo Martini, certo. Domani si parla di Truffaut, domani siamo divisi ma radiofonicamente uniti. Io sarò qui in Via Asiago, tu sarai già nella postazione. Di Perugia, e sarà fantastico.